Europa 24. In studio Daniele Biacchessi, buongiorno a tutti. In apertura alla crisi libica, la discussione politica su scala internazionale ed europea sull'ipotesi di un intervento militare. L'Italia prende tempo ma mira al comando della crisi. La Francia, che pure vorrebbe guidare una coalizione, preme per la riunione del Consiglio di sicurezza. L'alto rappresentante dell'Unione, Federica Mogherini, incontrerà a Washington il segretario di Stato americano e il ministro degli esteri egiziano per parlare di una possibile azione comune in Libia, escluso però al momento qualsiasi ruolo militare per il vecchio continente. Questa è la diplomazia, mentre sul campo non si fermano i raid egiziani. Dopo le incursioni di domenica notte, l'Egitto ha bombardato anche la notte scorsa per 7 volte almeno su Derna, colpite le postazioni dei miliziani del califfato. Si parla di decine di morti. I raid sono parte del diritto dell'Egitto all'autodifesa per proteggere i nostri figli, ha detto il ministro degli esteri egiziano Shoukry. Allo stesso tempo il presidente al-Sisi è tornato ad appellarsi al Consiglio di sicurezza dell'ONU per adottare una risoluzione per un intervento internazionale. Non c'è altra scelta, ha aggiunto Sisi. I libici ci chiedono di intervenire. Il quadro diplomatico al Palazzo di Vetro però non è di così facile composizione, visto che in Consiglio siedono Russia e Cina, che hanno diritto di veto. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto l'Europa guarda con grande preoccupazione la questione umanitaria derivante dalla situazione libica. È un vero e proprio esodo quello che sta avvenendo in queste ore dalla Libia verso l'Europa. Negli ultimi 2 giorni i gommoni soccorsi dai nostri mezzi nel canale di Sicilia sono stati più di 15, con a bordo oltre 2.000 persone. Ma con l'avanzata dell'ISIS in Libia, con l'acuirsi delle minacce all'Italia e all'Europa, questa fuga dal Nord Africa assume aspetti ancora più inquietanti e forse porta a riconsiderare quel rapporto dell'ISIS diffuso dai media libici poche settimane fa, in cui si leggeva: arriveremo in Europa con i migranti, la trasformeremo in un inferno. Non è dunque solo la questione umanitaria ed è per questo che l'Italia si è affrettata a inviare una richiesta ufficiale all'Unione Europea di rafforzamento della missione Triton. Il ministro degli esteri Gentiloni ha scritto ieri una lettera a Bruxelles. Servono più personale, più mezzi, ma soprattutto più risorse. Occorre aumentare il budget. Spendere 2,9 milioni di euro al mese in aiuto umanitario non è accettabile, ha detto il ministro degli esteri. Con Mare Nostrum l'Italia ne spendeva infatti 9, ma le navi si spingevano fino a ridosso della Libia soccorrendo i barconi in difficoltà. Con Triton invece i pattugliamenti sono limitati fino a 30 miglia dalle coste italiane per non incoraggiare gli scafisti, ma spesso le carrette del mare affondano prima. Secondo Renzi però non si torna indietro, c'è solo la possibilità di rafforzare Triton, ha più volte ribadito. In ogni caso occorre affrettarsi, gli sbarchi dal 1 gennaio ad oggi sono cresciuti del 60% rispetto allo stesso periodo del 2015, ma ora gli scenari, si sa, si sono di gran lunga aggravati e dunque gli sbarchi cresceranno ancora. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'Unione Europea ha lanciato oggi un appello ai belligeranti a ritirare le armi pesanti dal fronte nell'est dell'Ucraina, come previsto dall'accordo di cessate il fuoco firmato la settimana scorsa a Minsk, esortandoli ancora una volta a porre fine alle ostilità. Rimangono ancora lontane le posizioni tra Grecia e Unione Europea. Il piano A è che ci sia un accordo a 19, questo è il solo piano sul tavolo, ha detto oggi il portavoce della Commissione Europea Schinas su eventuali piani B in caso di mancata intesa sulla Grecia. La decisione finale dovrà essere concordata da tutti i 19 Stati membri, ha detto la portavoce, e questo l'ha reso chiaro ieri l'Eurogruppo. Sentiamo il servizio. La Grecia è sotto pressione dei suoi partner perché accetti di chiedere una proroga del memorandum economico in scadenza alla fine del mese. Ieri sera l'Eurogruppo ha avvertito il nuovo governo greco che c'è tempo fino alla fine della settimana per iniziare i negoziati su questo fronte. Per ora il ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis rifiuta l'estensione del programma. D'altro canto, il partito della sinistra radicale Syriza ha fatto della fine del memorandum il suo cavallo di battaglia elettorale. Nuovi colloqui tra i ministri sono probabili oggi qui a Bruxelles, a margine di un Ecofin. Il cancelliere allo scacchiere George Osborne si è detto molto preoccupato della situazione. Ha spiegato che l'Europa è in un momento critico. Ha avvertito che l'Unione ha bisogno di competenza, non di caos, e ha quindi esortato i paesi della zona euro a trovare un accordo. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. È tutto per Europa 24. Vi saluta qui Daniele Biacchiesi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.